Subaru Swift del passato, vabbè. Manca Angelo, mi ha detto che non ha ballato niente la nave stanotte. Ma è sincera la roba, no? E sarà meno che arrivato, perché mi ha chiamato quando era a casa. A voi andare ho buscato che lei con l'affare. No, perché Riccardo non mi ha risposto, devo provare a chiamarlo domani. Cose, poi se c'è, come si dice, armonia assieme, io avevo la moglie, purtroppo Gesù Cristo ce l'ha portata via. Vabbè, pazienza. Sono con un bambino di 3 anni, me. Sai cosa vuoi fare? Sono cose che a volte purtroppo succedono, cosa ne vuoi fare? Ma non ti ne puoi fare una vita con un duro affacciato, e fai. Così rimani sempre in depressione, invece e la vita va avanti e bisogna reagire e niente, quindi se c'è altre opportunità è meglio vedere come va, dai. Ah, va, vediamo. E poi mi ha trappato una samana, cioè di esempio una samacca. Sì, vedrai che già ce n'è. Pure se sei giovane a livello di età, che non sei anziano, da puttiglini, la tanto che ne dai che fai a mai è pieno, ti pone un ombrellone a fianco a una bettona, una vetta, una scurimanna. E dici signora, guardi che in acqua c'è galleggiante. Ah no. E allora, una fusa magari, domande accendino, una cosa, e fai amicizia e piano piano vedi che figlia ne hai. Uno ne ho. E già va bene, se vedi che si innamoreggiano, pure un pizzino si innamoreggiano a chi. E una fusa magari da cui ti fai una femminuccia di qua. Ha ragione, mi piglio una zucchinca. Già c'è qualcuno in gamba mia, se ne pure qualcuna mattia, dice che sono fedeli come donna. Ah, guarda, se si innamora di te è fedele, se ti si muore giuro ma convenienza mandati a vaffanculo. Però se è una donna che ci tiene a te, te lo fa capire, no, di chi sia convenienza di andare al supermercato all'Eurospice, andare a convenienza. Sì, no, non ne voglio dire che si carriaggino. No. Se qua devo entrare diventa una persona seria, ma non a Sicilia, li vengo e ti ramandi. No, non ne voglio i nostri ragazzi, no. E infatti ci vuole una seria che abbia un po' di cervello e che si vuole fare una famiglia. Se no se ne casi da un viaggio studiamo la cucina. E ciao e arrivederci, come se tu giù 4 botte una cagliata e buongiorno e arrivederci. Cosa avvenga una che non serve a nulla. No, io non che devo entrare una persona come ti si deve, per la mia vita, una persona che va d'accordo con mia sorella, con le mie cognate, con tutti, che sia una persona che tenga lo figliore, la ragazza, pure un mabeda, pure se vuoi un altro figliore, burueta, non mi disturba. Cioè, potrebbe anche non disturbarmi. Però io non che cioè no, non è così, no. Cioè devo entrare una persona seria nella mia famiglia, no. Non una persona che è tutta canta con tuo studio, no, non ne voglio casini, no. E non è meglio che rimanga a Azzurro. Quello è capito, ma già c'è qualcuno, poi la casa la tua è quella che hai. Sì, c'è la casa. E vedrai che già fai la grande schiva pure e appagato. E niente, e cambia anche l'umore cambia. Già lo credo, già. Io non ne voglio batticci, no. Io voglio la serietà, voglio. E certo, mica avremo 18 anni anche sulle frui, almeno su remi e tutti i generi. Arriva una certa età, avevo serietà, se vedo, è un po' di intelligenza umana ci vuole, no? No, ciccui e andare a ruttere, no. Per quello, come hai detto tu, meglio che mi stai dalla giura, è più tranquillo, però come hai detto tu devi andare d'accordo con tutti. Lei va d'accordo con tutti, rimane amica con tutti e ottiene tutti gli esempi. Beh, certo, non ne voglio gasini, no. Già in questa famiglia me ne sono state troppe cose contorte, troppe cose che non sono mai andate bene, non ne voglio più sapere, no. Ehi, ti do ragione, proprio a chi è così, funziona così, e niente, poi siamo in un'epoca, in un'era dove i gozzi devi funzionare bene, sennò se ne scoppiano i soldi. Scappa, sì. Quanti anni vai tu, Antonio? 41. Capo, non sei giovane, sei più minore di me. Io sono del 77, ne ho fatto 48 a dicembre. 8 anni più di me, sai. Scappa, Roger. Niente, io ero fidanzato con una tipa, alla fine mi ha rotto i coglioni. C'ero quello che c'ero. Niente, lei sta coscia. Lasciami la testa, già io faccio i problemi miei, fa conto mio, non ci sanno in Libia, qui si a te come sei creaturi, andaci ad andare e non ti fa vedere più tu. Come hai fatto poi a mandarti di là? Vai, andaci a girare balle, vai. No, è gente che viaggia, no, ragazza. E al canto del nero, sì, lui, con l'accusa che viene i bambini con il papà e con la mamma, lui me ne va da casa sua, qui, lì, là, e ha portato due pari di un mito di taccosta, fa una cosa, piglia i bambini, piglia di neri ferri e andatina ne sei andendo, vai che non ci stai io a combattere a te, già mi sono combattendo io. Ah, di chi si è? Che state sempre in cucata? No, non vi andrà mai di fare un cazzo, voi a sempre di Naya, esci in macchina, passi di in macchina, benzina qui, benzina vai, non ti devo provare né macchina, né benzina, né nulla. Anda dalla giura, c'è da andare. Quando è così, mi ti feo. Con la scusa, no, che... compreso, una cosa che fa di valuria, alla fine ha detto fa una cosa, ha detto a me mi hai trovato su un treno che stava andando a Alghero, anzi a Cagliari, e tutti si è voluto a fermare Alghero, stando fa una cosa, lasciami in Alghero, io gli dico continuo ad andare a Cagliari, e lasciami un ripeto tranquillo. Ma cosa era? Mauretta? No, tu sì, l'uomo aveva un ristorante, buono, preso una cosa che avevano in tutto, non voleva fare mai un cazzo. Allora fa un piacere, regali due di nai, no? Che no, io questa giù regali di una testa. Hai capito? E quindi si piace la vita mondana, San Giura, mi chi ferma in giù, la gente ascolta. Fai una cosa, vattene insieme alle amiche tue e a me non mi dica più, che a me mai avuto i cuscini di passaggio, pure in mura di cuscini, e ha detto, pensi troppo questa giù, tu vai a ne andare, va. Infatti il babbo di chissà vicina, quando mi vedi, chi si illumina già le luci, e la buia faccia un gabbo come per di che, chissà di radiata. Che hanno combinato guasti. Sai cosa vuoi, purtroppo sono le pecore nere della vita. Se l'ha già avuto pure io una disgraziata così. Faccio boccia, due secondi faccio boccia, faccio il tacco. Piggia i beni e andatini, vai. Macca di catena. Io? E allora più che macchi di catena non so quando sono così. Allora io faccio un amico, no? Con l'accusa sì, si è abbriato, se ne è andato a casa di chi sta con me, a chi aveva la casa, e non venivi, eccetera, eccetera. E alla fine ha bisogno di una parte e una lassa. Ecco che ne ha avuto in casa sua, in pari. Se no vive sempre nella mamma. Mamma mia, cazzo, c'è niente così, è meglio no. Non accapparla mai nessuno nel cammino, guarda, ti giuro. È meglio che no, non accapparla mai, che no. Non so gente, so gentaglia, so proprio. Ma carità, manco i cani. E infatti da voi, per esempio, hai avuto un'esperienza del genere, no, non ti contieni più, a che alla fine uno c'è a fiago e a movimento. E quindi, come si dice, a una voce solo Bulgarini in questo gruppo, da voi non si cade più, Ma carità, mamma mia, vabbè. Sono tutte esperienze che si fanno. Pure io ne avevo una di Cagliari. Quando ho visto che ha fatto una era, ho detto fa una cosa. Ammazza di tu, mamma dove? Da poi capito, la cosa che mi ha fatto più, cioè, che mi ha un pochettino fatto male, ha detto grazie che era tipo c'è incinta, invece non era vero nulla. Pure a mantenimento a me, ha detto ma non ti andare a carriera, brutta carriera, già che non sia, sta brutta imbecille. Poi mia sorella gli ha fatto, da voi non era vero nulla. Detto, fammi vedere se veramente è. Poi non era vero niente, non era vero, perché poi lei neanche figli poteva avere, perché aveva una malattia all'utero, una cosa del genere. Chissà di che razziata, te immaginerci. Buia, lo mantenimento a campalla giù, buia, notte e nande, piripiri e botti e bottarini, e da lì per la tua strada, vai. Ma carità, gente fuori di testa. Hai detto un attimino che ti ripiglio con la radio della camera da letto, ma va comodo. E hanno la camera da letto. Eia. Hola, avanti a Cinten. Più forte Vicenti con questa. Eia. Qui c'è il 48 UM. Qui c'è una bomba. Bella radio. Più forte. Ma io stesso quando attacco l'ANA 68 sembra che abbia appena di potenza in più, forse magari a chi erano infatti in Corea, paraguerra, cosa ne so, di chi la mia è un po' vecchiotta a me. Però è nuova, ma più buco l'adesivo di Che Guevara del frontale e mi avevo verniciato i tappi, tipo con la bandiera. E invece l'altro, adesso sto usando il Galaxy Saturn. Guarda, va benissimo, va, sente bene proprio. Oh, già. Mamma mia, la mia bella vita. Allora, tu ti giochiamo. Io sono mio bambino. Dopo più tardi, quando mamma mia. Oh, già. Roba di consolaggio ha pigliato, che ci dici? L'antenna, che te la piglia, però no. Lo si pigliano. Oh, è una buona antenna che si è pigliato. Cazzo, da barriate ha pigliato. Ma qua la raffica diventa allucinante, mi pareva una punta ci piegava. Se c'era un vento da 50 fino a 80 km orari questi giorni. Infatti a mio fratello che abita di fronte, gli ho detto guardami quell'antenna a vedere se è a posto, ma detto, vai che tranquilla, pare che sia un dente attaccato, mi ha detto. Perché la mia è quella in fibra di vetro bianca, una System Gaim, la mano me la metto che si chiama. E ti dico che non la, manco un bello l'ha cucato. No, la mia è una GPS della Sirio, ma quella è una Game Master, no? passeggiamo, diciamo che dirigiamo a Game Master, chi c'è il più bravo di Petro. Ehi, chi sei la Game Master, va giù io. E poi c'ho la Sirio Thunder, quella tipo a bastone, 1,20 m. Infatti quella è attaccata all'altra radio. Però fa bene lo stesso mio. Chi stava questa qua, la Game Master, va a 1000 W di picco al massimo, e l'altra mi sembra che c'ha 200 W massimo, ma va bene lo stesso, con queste radioline 48 e 68 vanno bene quelle lì. Un occhio di comulo, esatto, faccia rimone di metri di baro e a Puglia, vinne finse che pari i boccellini, vinne. No, chi te... cosa ripeti? Mamma mia, che c'è un bizzino, di tricurone in combina. Lascia stare, scendi! Scendi, paro culo, Ma è figliolo. Cosa le hai dato, che massiccio l'hai dato? Cosa ti hai in mente, la cucina? No, sono in camera da letto, del cutente, un cosa di lunetto, il cutente. Anche di combina, infatti di cura ora di combina. È una scena qua. I criaturi sono imprevedibili, però sono belli e ci rimangono, ti stupiscono a volte, secondo cosa fanno o cosa ti domandano. Non hai dubbi, pizzini minori? No, non ho avuto occasione, a chi come ti mi viene spaccato la schiena, si dice, che mi avevano operato alla schiena e mi avevano rotto le vertebre, è finita tutta la vita mia, è finita. Sono sempre avvelenato, come se non è gioco, guarda. E niente, alla fine sono sempre a dolori, se no ero un ragazzo ribellino di muda, mi andassi a piccare, va più gommone, va più di tutto, va più. E in casa la mamma non mancava mai pesce, non mancava mai nulla, mancava. Invece adesso sono, non lo so, guarda, non so manco cosa dici più. A chi a me mani operata una vertebra e con l'accusa di questa vertebra me ne hanno fasciato il zinco. E da voi l'accusa che quello come tiro io compreso, miserabili, dottori bastardi. Ma come ti mai? Che incidente è successo? Cioè, come ti mai? No, praticamente ero sempre un po' mal di schiena e dice che avevo una vertebra che era leggermente schiacciata, magari ho fatto qualche sforzo o qualcosa, ma sono andato camminando, pure si era dolori, camminando. Invece mi hanno fatto spaventare che mi dovevano sistemare questa vertebra e alla fine praticamente mi sono gassucciato io e mi hanno operato, ma la bicicletta invece hanno buttato a travagliare tutti quanti che si, come si chiamano, universitari neolaureandi e mani di tutto contro la china che va giù da L1 a L5, tutti fracassati, tutti pieni di vittine e bulloni. Tu non sai quando vero freddo come ti mi contraini tutti i nervi della bassona. Già t'hanno fatto bene, se te lo sto dicendo, se no ero un cinghialetto quando ne uscì dallo fraccone, presenti, Isio Maria, io ero un po' confuso. E cosa vuoi che ti dica? Accidenti. Tu dove stai? Alla zona marina, dove stai? La zona di sorso, dentro il paese proprio abiti. No, abito tra Sorso e Signori, hai visto nel caso di Franco, non so se lo sai dove abita Franco. No. Praticamente io abito nella secondaria per salire a Signori, da via Sardegna, ne si vede in tutti gli santenni maturi del 5G. Ma i bruci in figlie. Si avviso mio la notte quando mi scendo a riguardo a che cosa passi che attendono che si antenne e questi cazzo di gozzo di radiazione passi per poter in terra. Come ti mai? Come ti fai tu a saperlo? Perché mi ripeto sempre la mattessura quasi e poi mi sveglio tutto dolorante e non so come se sono i nervi miei che si raffreddano, si addormentano, non lo so, però tipo al figlio mi ci davo alle 2:30, sempre alle 2:30, avanti inverno sempre alle 4, sempre alle 4 e mi va davvero in ania che sto bu- mi metto a parlare da solo, sto con gli altrimenti, finse i doppi consumo, gli dico tutto con 20 anni. E allora tocca farmi un caffettino, o mangiarmi un pezzetto di brioche, magari accendo la televisione a vedere il meteo, un pezzo di telegiornale. Come se ci pulisca nel studio di tutto, che mi fate nei giù, via frina. Capo sotto. Che cosa tu? Ho sentito qualcuno che voleva entrare, avanti. Ieri c'era Gio Maria Figaro, ha detto che era da un po' che non entrava. E niente, poi è entrato Franco ed eravamo in 20 anni, ed eravamo qua, eravamo sul 10. E sul 12 in FM non c'era nessuno. Scappa. Dalla quinta Giulia, però ero per di cosa. Ero tutti niente, prende. Vediamo. Ma che belle voci di telefono mi furo. Ci sono creaturi, quant'anni va? 3 anni. Sì. 3 anni. Ah, 3 anni. Allora devi inventare cose. È curioso Dando, Tappa. Tu vuoi arrivare, mamma mia, però anche un mare che sono uscito. Sono parata a bancare, già la conosci Antonella, ha preso una caffè di vivi, diciamo un poco, per la rugaraocca, ho cantato. Già è bello, già lo so dove è posto. Prima andavo, va su cui non me andai i ruffi, però ti divertivi anche con poco, cioè trovavi tipo amici e così, nel senso che da un karaoke l'altro e ti divertivi. Ed era bello perché tanto andassi a una sessura, ti ritiravi da chi se ne andassi a anni tutti canti, oppure prima. Ed era bellissimo, bellissimo. Beh, io la frequento molto quei karaoke. Ce la va un po' di manco perché per via del bambino, capito? Se no già andavo io al karaoke, beh, è un bel puro. Sì, vabbè, adesso piano piano vanno in manna da voi. Da voi come hai detto tu, ecco una bella bistona e vedi che andate tutti insieme al posto. A far karaoke, a mangiare via che gelato, a fare una passeggiata. È bello, andate così, è bello. Ehi, amo io con un gelato caldo. No, figli, con un gabarito di cioccolato a blob. Ehi, ascolta, ma ce n'è Nutella nel barattolo? Sta a cosa? Dici che diciamo urbanolino, va? Ehi, andame, come arrivo? Bene, arrivo di raggio. Benissimo, senza nessun problema, è una bomba, Non le coordinate così, è abbastanza, va abbastanza bene. Bene, capire che c'è già formato qui, va bene. Mamma mia. Gappa, gappa, andave allora, andave da. Attimo di bianco, il giamborbanolino. Ehi, vai tranquillo tu.